mattino, tra il sussurro e il destino, Sione Pizzi guida il cammino con occhi da matto, senza confini. Un viaggio di parole, un incontro genuino, nel cuore della vita, nel suo intimo, rincorrersi. Ah, belli de casa, bentornati qui su runtimeradio.it. Alle ore 7 di mattina di ogni venerdì ritorna il Grande Reset con me, Simone Pizzi, per farvi compagnia, per stare insieme, per chiacchierare di cose importanti, serie, magari anche profonde, o come in questo caso, diciamo nello specifico di questa mattina, parlare del più e del meno, giusto veramente per farci compagnia. Questo è un episodio di debutto della terza stagione, dove ovviamente cercherò, insomma, di riprendere il a carburare, ecco, diciamo, con questo programma, riprendere un po' il ritmo delle live e soprattutto ritornare con un po' più di entusiasmo dopo, insomma, diverse abbondanti settimane di riposo, delle quali ovviamente avevamo sicuramente bisogno, delle quali, insomma, c'è stata proprio la necessità quasi fisica. Perché, lo so, non vogliamo passare per quelli che si lamentano per fare una cosa che si divertono a fare, però un progetto come quello di Runtime è divertente, è bello, lo facciamo perché è la nostra passione, però indubbiamente è anche impegnativo, no? Perché non c'è solo le live o registrare i podcast, c'è tutta l'organizzazione dietro, il muovere una macchina che comunque in qualche maniera oramai può dare la sensazione che si muove da sola, ma in realtà, insomma, comunque c'è sempre un lavoro dietro, e lavoro che insomma ci sarà anche durante questa stagione, perché ci sono delle idee, delle cose nuove che proporremo, un tentativo di fare anche un po' uno step in avanti, l'avevamo detto, insomma, a fine della scorsa stagione, dare una consolidata anche al progetto di Runtime Radio, istituzionalizzarlo e provare con dei progetti che possano fare appunto uno step in avanti per quanto riguarda il nostro progetto, ecco, cioè le idee che sono dietro, anche per valorizzare poi questi oramai 14 anni di lavoro che c'è stato, dai podcast più amatoriali fino a ovviamente questo lavoro, questo grosso impegno che stiamo facendo con i podcast che si sono abbastanza professionalizzati, poi noi mantenendo sempre quello spirito del fatto che in fondo a noi non ce ne frega niente se non appariamo nella home page di Spreaker, perché noi comunque i podcast li vogliamo fare come ci pare a noi, però ci sono alcune cose che magari è ora di dire ok, continuiamo a fare le cose come ci pare a noi, magari qualche cosa diamogli un po' un valore diverso. Ma intanto benvenuti, benvenuto a Mr. Zero, benvenuto a Walter e benvenuti a tutti coloro che sono qui in onda, cioè sono, insomma, stanno ascoltando, quei pochi che ascolteranno questa trasmissione. Vi dico, come vi è stato annunciato, insomma, domenica scorsa, che è iniziato è ritornato il palinsesto standard di Runtime Radio, che inizia alle 6 del mattino e finisce alle 23:30 di sera, più ovviamente le repliche di notte, con una rotazione costante programmata e organizzata di podcast, più ovviamente quelle che sono le live. Ha ricominciato Leo il lunedì e il mercoledì, ci sono io questa mattina. Poi piano piano ovviamente cercheremo di riaccendere tutti quanti i programmi. Proprio per tutti i programmi vi ricordo che martedì sera alle 21:15 sarò live sul canale di Pixel Deb, insieme a lei parleremo della storia della Revolution Software, e venerdì o giovedì, adesso non ricordo, scusate, fate finta, sono andato a cercare, c'è il famoso chinotto di Apple e saremo live sul nostro canale Twitch, sperando che non ci siano le conseguenze che sono state lo scorso anno con il ban del canale YouTube, una settimana di blocco, non potevamo caricare, siete stati brutti e cattivi e via dicendo. Insomma, quindi cerchiamo poi piano piano di riprendere anche con Pop Corner, che insomma vi ha proposto queste quattro puntate extra estive, così insomma un po' una sorta di spin-off, una sorta di off-season, così come ho provato a fare anche con il Grande Reset per qualche puntata. Poi dopo chiaramente ho lasciato perdere perché ero veramente molto molto molto stanco e vediamo insomma che succede questa mattina. Appunto parleremo di praticamente niente di trascendentale, considerando insomma che sono reduce dalla malattia, perché a me è la malattia che mi ha fregato, diceva quello. Ma qual è la malattia che se portiamo dietro durante questo periodo? È la malattia delle malattie, che fortunatamente non è, grazie a Dio, niente di trascendentale, però insomma è qualcosa che comunque ti lascia il segno in qualche maniera. Ma e ho fatto a tutti quanti una domanda e hanno risposto solo in due, ma tutto sommato me l'aspettavo. Io ho ancora questa cosa che ogni tanto chiedo se volete partecipare, però insomma non le vado più a cercare più di tanto come faccio prima. Oh, ricorda di mandarmi l'audio e via dicendo, perché questa sarà una stagione dove se ci sarà la partecipazione bene, se non ci sarà non fa niente. Ma giusto, cioè non è in senso polemico, è giusto che sia così. E tra l'altro sicuramente poi ci sono magari degli argomenti che sono un po' più stimolanti e possono indurre alcune persone a partecipare e altre persone magari che non gliene può fregare di meno del tema, e è più che legittimo insomma da questo punto di vista. Ma di che parliamo oggi? Uno dice se incazza, no? Perché se... Ah, eccola, scusate. E un anno se ne va. Cioè, è la canzone con l'intro più lunga della storia. Diventando grande, lo sai che non mi va. In spiaggia di ombrelloni, non ce ne sono più. È il solito rituale. Qui da Riva del Garda, mi raccomando, un saluto a tutti, saluto anche Leo, vedo Debora, ciao Debora. Languidi brividi come il ghiaccio bruciano quando sto con te. Baciami, siamo due satelliti in orbita sul mare. Ai due ragazzetti a bordo piscina, mi raccomando, eh. È tempo che i gabbiani arrivino in città. L'estate sta finendo, lo sai che non mi va. Vuoi già chi ti consola, a me chi penserà. Languidi, brividi come Ragazzi, il tagadà è un gioco per non farsi del male. È partito il portafoglio, ridaglielo al ragazzo. Cornetto e cappuccino a 2 euro, dice Mister Zero al bar, se volete andare. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Una fotografia è tutto quel che ho, ma stanne pur sicura, io non ti scorderò. Ragazzi, quelli della macchina scontro, mi raccomando, non dovete scendere dalla macchinette. Dunque, le mie vacanze sono state esattamente quello che mi serviva, cioè il nulla. È stato un periodo, quello tra l'inizio del 2024 e l'inizio delle ferie del 2024, molto turbolento, molto caotico per me, e l'unica cosa che volevo era riposare, dormire, stare tranquillo, stare sereno, non fare niente, non dover organizzare niente, né viaggi né spostamenti, perché comunque ne ho avuti già fin troppi. E ho avuto quello che volevo. È stato un periodo tranquillo, di distensione, di mancanza di preoccupazioni alcune. Veramente sono tornato bambino per quei momenti. E per carità, ho avuto anche le mie belle seratine, sono andato in posti, ci mancherebbe, però senza stress, senza dovermi preoccupare troppo di organizzare viaggi, voli, hotel, cose di questo tipo. No, solo spostamenti brevi momenti in cui magari lasciavo il tetto di casa per andare a vedere un posto o fare determinata attività, ma per il resto niente di complicato, tutto molto molto tranquillo. E ripeto, è stato esattamente quello di cui avevo bisogno, cioè delle vere e proprie ferie da tutto. E una volta che ho finito questa ibernazione si ritorna definitivamente a lavorare. E niente, si ricomincia piano piano, per carità, perché tutti mi sembrano in linea a ricominciare piano piano, quindi forse il vero fuoco verrà riacceso per settembre inoltrato, ma insomma cerchiamo di ripartire ben rinvigoriti da questa lunga vacanza. Allora Leo, grazie Leo che ci hai mandato questo tuo contributo, diciamo che in linea massima condivido appieno, pure noi non abbiamo fatto praticamente una mazza, anche se mo sono un paio d'anni che non facciamo una mazza, facciamo anche tre, e avrei dovuto andare nel mio casolare, nelle Marche, ma poi sono successe delle complicazioni, ma vi annuncio che potrebbe esserci un'iniziativa a ottobre, ragazzi, dopo 3 anni. Il Runtime Raduno International on the way potrebbe, ci stiamo lavorando adesso, poi ci lavoriamo su questa cosa. Comunque anche noi ci siamo veramente abbiamo spento completamente anche i link, no, con il re. Non dico che ci siamo isolati, però insomma diciamo che abbiamo proprio bisogno di staccare dalla radio, di staccare dal lavoro, di staccare da tantissime cose, e tant'è che poi alla fine ci è venuto pure il Covid. Ci è venuto il Covid a Ferragosto, ragazzi, è un'esperienza che non auguro a nessuno, ovviamente in generale il Covid non lo auguro a nessuno, però insomma ci sta che è stato un po' impegnativo, no? Proprio perché già è una mazzata di suo, perché a me e Michele ci prende proprio male, anche se stavolta forse un po' meglio rispetto alle vie respiratorie, però ci prende veramente male, stavamo proprio sotto un treno. e poi ti lascia degli strascichi incredibili, tant'è che pure ieri eravamo un po' mezzi così, stavamo un po' tipo zombie, dicevo, ma è il Covid, è il Covid, tutto il Covid, sono tutte giustificazioni, però diciamo che tendo a sottolineare ed essere d'accordo con Deborah, che dice giustamente, eppure quest'estate se la siamo levata dal cazzo, il concetto è quello, lei l'ha espresso in maniera più elegante. Però purtroppo mi tocca dargli ragione da una parte, ma mi tocca dargli torto da un'altra, perché secondo me fino a ottobre sta roba ce la portiamo dietro. Tant'è che infatti questa mattina avrei voluto esordire come avrei fatto, diciamo, a inizio settembre di 25 anni fa, 30 anni fa, quando mi sentivi già l'odore dell'autunno, no? Vedevi già un cambiamento anche dal punto di vista climatico, che era un po' la cosa che d'estate, quando eri ragazzino e stavi lì alle tue vacanze al mare. Io poi praticamente per 3 mesi stavo alla mia casa al mare fisso, e quando cominciavi a vedere le sere che si accorciavano, il vento di settembre che un po' si alzava verso la sera, insomma il posto che si cominciava a svuotare, gli ombrelloni che venivano riposti, ti veniva un po' quel senso di malinconia, di un qualcosa che era finito, che insomma non, diciamo, avrebbe lasciato il posto a qualcos'altro. E quindi, sai, quando ti stai per spostare da un posto all'altro, quando stai per entrare in una dimensione rispetto alla dimensione dell'estate, perché noi quando eravamo ragazzini vivevamo praticamente due universi paralleli, l'universo quello dell'inverno e l'universo quello dell'estate, che spesso e volentieri erano completamente diversi, anche se qualche volta capitava che magari erano adiacenti o insomma vicini, e c'era quella piccola malinconia che ti prendeva, perché magari c'avevi la ragazza e poi dicevi, vabbè, ma tanto poi ci vediamo pure quando torniamo, e via dicendo, e poi insomma sapevi che andava tutto a puttane, come era giusto così. E a proposito di questo, mi ricordo una volta che eravamo insomma tornati da poco dalle vacanze, che mi ricordo che la scuola iniziava il 15 settembre e noi fino al 13 settembre io e i miei amici stavamo al mare, rimanevamo al mare, insomma, no? E quando eravamo tornati, praticamente mi ricordo che stavamo a giocare a kick off sull'Amiga, e io c'avevo questo appuntamento con questa ragazzetta che c'avevo, che era la prima volta che ci vedevamo a Roma, insomma, quindi era una cosa carina, no? E poi a un certo punto stavamo a giocare a kick off e io mi ero avvelenato a giocare a kick off, eppure l'amico mio diceva, vabbè, ma che te frega, dagli buca, stavamo a giocare a kick off. E quindi è stato così, io ho dato buca perché stavo a giocare a kick off. Gli ho telefonato, guarda, devo fare, c'ho da fare con mio padre. Ah, ma che sei uno stronzo. Poi dopo una settimana mi telefona un amico mio e mi disse, oh, ho saputo che ti sei lasciato. E gli ho detto, no, veramente no. Allora gli ho telefonato, scusa, ma mi hanno detto che ti siamo lasciati. E lei mi dice, ah, ma chi te l'ha detto, chi è questa cosa che mandano in giro, è quella. Poi mi fa, dice, vabbè, però se ci pensi non si vede mai. E io ho detto, sì, ma c'hai ragione, fa mannaggio a kick off. Non gliel'ho detto così esplicitamente, ma insomma il senso era quello, naturalmente. Quindi c'è un po' sempre stata sta cosa dell'estate, un po' la malinconia, che ovviamente, però crescendo poi le cose cambiano, cambia pure il mondo, cambia pure il modo in cui guardi le cose. E a volte quei 3 mesi di vacanza diventano 15 giorni, sì e no, e quindi in quei 15 giorni devi decidere come concentrare ovviamente tutte quante le tue ferie, se destinarle ovviamente a un a qualcosa di più avventuroso, di andare in giro, di farti qualche capitale europeo, andare al mare addirittura, cosa che vabbè oggi mi verrebbero i brividi, oppure se statene per cazzi tuoi e andate a fare qualche escursione in campagna, che alla fine è bello lo stesso, insomma. Ecco, e voi che avete fatto? Come ve la siete passata? Me lo dite subito dopo che ci ascoltiamo questa canzone di Cristina Donà, che si intitola Settembre, quindi immagino che sia in tema, immagino. Il sole a settembre mi lascia vestire ancora leggera. È tempo di ascoltare davvero. Ciao Simone, le mie vacanze sono in corso in questi giorni, sono appena partite. Io sono a Zante, ho avuto già modo di fare una piccola escursione e ho avuto la fortuna di vedere un mare molto bello, spiagge e poter vedere anche qualche bella tartaruga. Sono qui con la famiglia, faremo una settimana, penso che andrà tutto bene, ma con l'occasione potrò ascoltare anche volentieri qualche episodio di Runtime. Ciao a tutti e buone vacanze a chi c'è stato, chi dovrà andare e ahimè ancora chi invece lavora. Ciao a tutti. Eh sì, se c'è qualcuno che in realtà poi alla fine ha lavorato poi durante questo periodo, perché chiaramente rispetto a quando ero ragazzino io negli anni, fine anni 70, fine inizio anni 80, diciamo il mondo è cambiato, no? Cioè, non so se ve lo ricordate, ma agosto il mondo si fermava, succede ancora oggi, ma sicuramente in maniera diversa rispetto a quanto succedeva prima. Io mi ricordo in generale che io per tanti anni non sono stato proprio abituato, cioè per me non esisteva Roma d'estate, e quelle due occasioni, perché magari c'avevamo qualche cosa da andare a recuperare, perché era successo qualcosa o via dicendo, che mi è capitato di tornare a Roma dalle vacanze per un giorno o una notte, era assurdo, cioè mi sembrava un altro universo. A volte facevi anche fatica a riabituarti al fatto che quella era casa tua, e tu andavi, guardavi da facciare e vedevi non c'era nessuno per le strade, era tipo io sono leggenda praticamente, ma non... non il film con Coso lì, vabbè, non parlo proprio del libro, quello originale, insomma. Ed era una cosa che aveva una sensazione che faceva strano. Provavi a chiamare quei due o tre amici con i quali in quella dimensione, quindi la dimensione dell'inverno, magari ti sentivi più spesso, e ovviamente magari uno lo trovavi, l'altro no. Quindi era tutto così strano, no? Tutto così diverso, no? Alternativo, veramente sembrava una realtà parallela. Per quanto riguarda invece il discorso dell'estate, però è vero che a me l'estate quando ero ragazzino mi piaceva, perché era il simbolo ovviamente della libertà, però io ci ho sempre avuto una predilezione per l'inverno, no? In generale mi piaceva proprio pensare al fatto che cambiavano proprio le temperature, c'era questo, il cielo assumeva un colore diverso. Molti dicono che è connesso a una sorta di malinconia o di depressione. Io non l'ho mai pensata così. Per me, chi ama l'inverno in generale, a parte che a me piacciono proprio gli scenari invernali, cioè tipo, non so se ve l'ho mai raccontato, quella, sì, l'ho sicuramente raccontato, una volta, una notte di febbraio a Roma di tantissimi anni fa, e praticamente mentre tornavamo da dei controlli medici che ho fatto io, che in quel periodo facevo tutti quanti i giorni, con mia madre che mi ci portava, no? E ovviamente erano giorni in cui perdevi praticamente tutti i pomeriggi per andare a fare questa cosa. Una sera praticamente scendendo per via Taranto con il 3, mi ricordo l'autobus, il mitico 3, mentre che scendevamo dall'autobus ha cominciato a nevicare in una maniera incredibile, e si vedevano tutti gli aloni della neve sui lampioni, la strada che piano piano diventava bianca fino a essere completamente coperta, uno scenario anche lì completamente alternativo alla realtà, perché non avevi mai vista una roba del genere, cioè non l'avevi veramente veramente mai vista, ed è stata come una sorta di ricompensa, no? Cioè come se io e mia madre avessimo avuto l'opportunità di goderci quel momento di stacco da tutta una serie di realtà che erano pesanti, no? Cioè, comunque, ed è stato un momento di gioia, è stato bello, cioè una cosa particolare, no? Poi ovviamente la neve io l'ho sempre amata, messa in un contesto dove non l'hai mai vista, non è mai esistita, insomma. E quindi insomma, cioè, e poi questa cosa che sembra quasi diventa tutto un po' una scenografia di un film, no? Perché non si muove più niente, non si sente niente, non ci sono le macchine, non senti i rumori, no? Diventa tutta una cosa un po' incredibile. E poi comunque c'è anche il fatto che dal freddo ti ripari, dal caldo è... Vabbè, oggi noi siamo fortunati perché noi proprio quest'anno abbiamo fatto il lavoro al palazzo, quindi abbiamo il cappotto termico con le finestre chiuse, alla fine il grosso caldo non lo senti, però poi comunque arriva, cioè nel senso, vuoi o non vuoi, devi uscire, devi fare, Quindi quest'estate poi è stata terribile, ragazzi, è stata veramente terribile, alla faccia ovviamente di Donald Trump, anzi Donald Trump, che dice che è una fake news quella del cambiamento climatico, ma d'altronde come dagli torto, come dagli torto. Però mo, al di là di tutto, noi possiamo, cioè posso concordare col fatto che oggi prediligo molto più l'inverno, però è vero pure che, diciamo, non lo so com'è stato magari vivere l'estate negli anni 2000. Io ho visto cresce Matteo, ho visto che lui, che i ragazzi hanno avuto un rapporto con le cose completamente diverse da quelle che ci ho avuto io, e non voglio fare il discorso del ah, ma era meglio prima, no, no, è completamente, e sono completamente diversi i mondi. Ho visto che lui magari si è goduto l'estate molto di meno di quanto me la godevo io. Io ci avevo avuto delle opportunità che lui probabilmente non ci ha avuto, però è vero pure che loro, i ragazzi della sua generazione non hanno questo distacco come ci avevamo noi, no? Cioè il mondo dell'inverno, il mondo dell'estate, e quindi praticamente, o perlomeno io parlo di me, poi magari non tutti ci hanno avuto questo tipo di rapporto, ma per noi che eravamo diciamo, quando finiva la scuola eri felice, ti staccavi completamente, cioè tu staccavi completamente i ponti con i tuoi amici dell'inverno e ti trasferivi in un altro posto e iniziava quella nuova vita lì, no? Quando finiva quella cosa lì, magari con un po' più di malinconia di quando finiva la scuola, te ne andavi, staccavi completamente i ponti con quell'universo e riagganciavi i ponti con quell'altro, no? E, però dai, in fondo un po' un po' in fondo quelle sensazioni, quei friccicori che c'avevi e che magari venivano riprodotti in alcune canzoni o in alcuni film, l'abbiamo vissute, no? E tutto sommato ci è anche piaciuto. Io non sono una persona in generale che rimpiange o che guarda il passato con malinconia. Ah, quando ero un ragazzo io facevo di qua, facevo di là. Non lo faccio, non mi interessa farlo, non ho proprio questo tipo di cultura, sono sempre molto puntato sul mio presente in generale, e sono felice di quello che ho nel momento in cui ce l'ho, no? E quando guardo alle cose del passato lo guardo con col sorriso, anche con tenerezza, no? Dicendo è stato bello, è anche carino raccontarli, no? Gli aneddoti. Però io vedo gente che, e vabbè, poi quelli di Runtime lo sanno bene, abbiamo intervistato delle persone legate magari a un momento in cui, nel periodo del boom dell'home computer, della musica elettronica, erano qualcuno in quel momento, che guardano quella cosa come ma nessuno t'ha obbligato a costruirti intorno una vita di merda successivamente, perché se tu guardi al passato con la malinconia vuol dire che quello che poi hai costruito dopo è una merda. Cioè, non voglio giudicare nessuno, a me mi dispiace perché insomma capisco che, però insomma un po' questa cosa ce l'ho. E invece io quel friccicorio l'ho provato, ce l'ho avuto, sono stato felice di avercelo, e devo dire che a volte, quando ti capita magari di guardare qualche filmetto, no, tipo che ne so, quei film basati sulle vacanze d'estate, ti fa piacere, perché comunque dicevo l'abbiamo vissuta anche noi. Però io, quella era la mia generazione, e non so poi quello che è successo dopo, o perlomeno quello che so lo so in maniera un po' più confusa. Sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me. Vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e l'aria lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da... Allora ragazzetto laggiù che strilla Gino Paoli, amico delle guardie, non fa lo spiritoso perché si sente sui microfoni, se per cortesia ti allontani dai casse, grazie. E mi raccomando, eh. Così nella sabbia. Ah, ah, bronzatissima. Questa c'ha la richiesta Debora, eh. Raggi del sole. Com'è bello sognare abbracciato con te. Abbronzatissima, a due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con me, sulle labbra due dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate. Quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mar non potrò dimenticare. Ah, ah, bronzatissima, sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te. Sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate. Attenzione che cioè, Michele ci fa la rivelazione di Pocaramba, che probabilmente il fratello di Michela era lo stesso barchino adesso mi sono scordato il nome del nostro carissimo amico Ruggero, abbi pazienza. Beh, sarebbe divertente, persone che sono connesse in qualche maniera ma non si conoscono e non lo sapranno mai. Questa è la cosa anche più bella che insomma possiamo riscontrare. Intanto c'è Deborah che giustamente mi cazzia sempre perché lei chiede cose, io le leggo le cose che voi sapete, dovete sapere che le cose che dite, che scrivete, io ne leggo metà, perché nel mentre sto a fare altre cose, sto a cercare canzoni, sto a mettere alzi cursori, abbassi cursori, più insomma non è che sono un fulmine di guerra, e quindi abbiate pazienza. Insomma, tanto la canzoncina l'ho messa, è carina, abbiamo messo insomma il nostro amico Vianello, che non è insomma il Vianello che pensate voi, ma è l'altro Vianello, quello che ancora campa, poi è incredibile, cioè, oppure è morto, boh, non lo so. Comunque ragazzi, è stata una puntata simpatica, divertente. Fatemi sapere se avete delle idee sulle quali basare magari i prossimi episodi, dicevo, sai Simone, vorrei che si parlasse di questo, insomma, e io lo farò volentieri. Vi ricordo che è uscito Snap Architettura Imperfetta, e vi ricordo anche che per la prossima settimana dovrebbe tornare Runtime by Night, e se ci riusciamo anche Popcorn. Detto questo, io insomma spero di aver fatto una puntata che, come ho detto, insomma, ci serviva un po' per riprendere il ritmo, per vedere se funzionano le cose, perché sai, quando riaccendi le cose dopo un po' di tempo non sai se funzionano. Pare che abbiano funzionato, anche se in realtà c'è stato un problema, ma che ho risolto in mantinente e nessuno se ne è reso conto, ma non fa niente, e quindi abbiamo ripreso un po' il ritmo, abbiamo ripreso la voglia soprattutto, che è la cosa che ci piace di più, e poi ci sentiamo insomma prossimamente con i nuovi episodi. Grazie a tutti quelli che ci sono stati, quindi Walter, Mr. Zero, Deborah, Michela, Vincent Valentine, che dice che poi ci ascolterà in difterite. Grazie a Ruggero e Leonardo, ovviamente, che hanno oltretutto mandato anche i loro contributi, e ci sentiamo la prossima settimana. Per il resto continuate a stare sempre su runtimeradio.it.